Бекова, а ну говори, как меня слышно, далеко уехал уже? Да, хорошо, тебя тоже слышно. Chi è l'apparecchio? Buongiorno, buongiorno! Franco, tu sei? Già, ciao, buonasera. Sì, sono tornato adesso, ho sentito silenzio, ho provato a dire qualcosa. L'altro giorno l'ho detto... aspetta, cosa avevo detto? Ma è uscito a pigio Natalino. Vediamo se c'è l'ascolto. Natalino. No, ancora... Vabbè, presto ancora, sono le 5:10. E a Londra? Come procede? Cosa sei in giro in trasferta? Il segnale più basso? Cosa sei in barra mobile, barra camper, barra pesante? Sono in barra mobile vicino a casa mia, che stavo provando questo malogatto che stavo andando. Sembra che vada, credo che sia appena appena satura, 9.5 il segnale, 9.5 è un po' pieno, dai. Ma va bene come modulato proprio, sono più bravo. No, già è saturina, ma è aiutato da... limpida, così è Radio 5, così è veramente bella. E fammi vedere il segnale. 8, sì, passi da 8 a 9.5, quindi 9.95 sarà un minimo 7.47, dai. No, infatti occhio, fra... a macchina spenta non mi sono mai fidato usare il dinerito, perché magari ciuccia, magari quelle, non dico 10 ampere, eh no, vale, anche 10 ampere, se lo piloti con 5 watt roba di 10 ampere si mangia, più l'apparato, e se la batteria magari non è efficiente del tutto, nuova, non mi fido mai a motore spento. Comunque l'incremento di segnale c'è, certo, perde un po' di radio, e con quanti watt lo piloti? Allora, l'ingresso adesso era, vabbè, adesso mettiamo con la macchina per migliorare comunque, dai. Allora, la saturazione rimane, ma è capibile la radio, niente di che. Segnale, vediamo se è uguale o se ha migliorato ulteriormente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, no, confermo, 9.5 abbondante come prima, e quindi già sta funzionando come deve, dai. Capito, motore spento, vabbè, io non mi fido perché non mi fido, dai, non si sa mai. Sì, sì, andrebbe, ma ti chiedevo, tu quanto lo piloti, a 3, a 4, a 5? Però sai cos'è, non sei fondo scala incollato, magari un po' di saturazione la mantiene, perché c'è differenza notevole tra la modulazione di adesso che è limpida e attaccato. Va bene, sì, no, io faccio il paragone sempre con il 203, l'RMI Italy KL 203, che è praticamente è quello che c'è nel 747. Allora, se lo piloti fino a 5 watt non satura, 5 watt modulati naturalmente, non satura. Se ne metti 6, ancora è passabile, a 7 satura già, si nota molto. Però io ne vedo 4, sempre 4 ed è un bijou, è cristallina la modulazione, con quello che ho io. Beh, certi baracchini ce li ho a 4 watt, per esempio i 3009 ce li ho a 4 watt, lasciati apposta a 4 watt per dirottare meglio, non capisci a me. Sì, infatti, guarda, ti migliora la modulazione, e... tanto il baracchino poi da 4 a 3 non cambia molto, da 3 a 5 insomma non cambia tantissimo, poi il resto del lavoro lo fa la scarpetta K. Che altro c'è sul 10? Avanti? Luglio, tutti dormiti sono, tutti anziani, capito? Non ce la fanno. Sì, 4-8 vanno bene, 4 modulati, sì, che poi tanto in AM non è che spinga più di tanto. Bene, bene, ho fatto un bel po' di commissioni, la giornata dopo tutto era, non era male, era anche un po' ventilata, per fortuna, se no pure, sarebbe stato caldo. E beh, 2 Santiaghi, passi da 8 a 9, 9 più 5, 2 Santiaghi, dai. Cappa. Prendi la buona, perché questo Smitter, vabbè, non è a lancetta, però non è eccezionale. Cioè, lo Smitter è migliore quello del K. Io il 140 l'unica cosa che vorrei dire è che lo piango solo per lo Smitter il 140, per il resto non me ne fregava nulla. E almeno i controlli sono più giusti col 140, 140, 430, 440, insomma. Va bene. Ascolta, l'M400 era tipo, caspita, stiamo parlando della metà anni 80, era la versione 40 canali dell'M340 per caso, cioè minimale, c'aveva volume squelce, forse anche il noise blanker o il PA, non mi ricordo, hai già capito. Sì, guarda, io avevo un catalogo dell'85, Inteco dell'86 e c'era già in catalogo. Sì, siamo quegli anni là. Ma lei il 400 aveva la spina a pressione o già lo spinotto Mike con la ghiera? Non me lo ricordo. Quello è seccante, magari sei in macchina, no, devi tirare il mic, perché guidando non è che ti puoi avvicinare, tiri il mic e si stacca. Però vabbè, basta fare con calma, gli puoi mettere anche la presa 4. Bisogna un po' pentarsi, ma è fattibile. Ma tu quando sei tipo camper non ti piace provare qualche DX con l'Italia, con le bande laterali, no? Via. Va bene, adesso vado a bere e poi se entra qualcuno in radio dopo, bene, se no pazienza, dai. Ciao Fra, ci sentiamo. Che sono appunto, come tu hai detto, appena tornato, devo un po' organizzarmi tante cose. Ci sentiamo, ciao. Ciao Marconi, dai, se ci sei entra dopo, dai, ciao. Che chiama? Ciao Tony, è a Londra. Sempre io, no. Ah, tu sì, ciao Marco. E allora, ci sono a casa. Sì, ho sentito una voce lontana con l'eco. Credo. L'hai sentita tu? Sì, però non era qua, non in questa zona, invece era lontano. Sì, l'ho sentita. Ecco. Bene, mi ascolti con questa radio. Sto provando a montarne più 3, Marco. Sì, sì, sono. Naturalmente non vedo lo Smitter e non vedo gli apparati, sono coricato con le spalle agli apparati, dai, coricato con coccaddo. Ma allora c'era pure buona. Ah, mi interessava insegnare se andava bene, non mi interessa insegnare. Mi interessava la radio se andava bene, capito? No, c'è un innesco di fondo, adesso. E adesso ancora? Sì, ya. Fa così. E aggiungo un triso, ma esita. Vengo un attimo, adesso ancora c'è. No, no, è sparito. Infatti, guarda, i microfoni amplificati a volte rompono più le palle che altro. E infatti rompo le palle perché era il preamplificato, troppo a manetta. Poi mi sono messo vicino al baracchino e innesca. Invece ieri, o quando era, c'era qualcuno che provava un mic da tavolo. Come toccava il mic da tavolo, no? Il metallo, faceva alternata. Se non lo toccavi e toccavi solo il PTT, che di plastica non faceva più alternata. E ogni volta con masse, cose, impedenze che non si adattano, no, tu hai bisogno di scatole. Io ho un Alan cos'è questo qua? Un 48 modificato, lo volevo provare, ma se mi ascoltate, c'è bene. Più o meno, forse un po' di toni bassi, sai cos'è? Questo baracchino che sto usando omologato è un po' piccolo, c'è un altoparlante piccolo, è una timbrica, non è bella come quella del 3009 di ricezione, la timbrica, forse è un po' cupo, ma potrebbe essere dal baracchino mio, capito, Fra? Quindi prendila sempre col beneficio del dubbio. Vabbè dai, adesso sto usando il suo microfono originale. Via. È diversa, sì, questa c'ha più acuti, più medi. È più forte pure, mi sa. Lei sa cos'è? Ma quello palmare è questo. L'originale suo, Sì, perché col palmare parli praticamente attaccato, no? Vicino. Con quello a tavolo uno, bene o male, quei 30, anche 40 centimetri li tiene, più o meno. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È di proprio diversa, questa è più un po' rimbombante, cioè un po' di effetto stanza. E si ha discretamente toni bassi, non potrei definirlo forse cupa, però meri bassi ce li ha. E vabbè, adesso, vabbè, questa è camera, camerone grande, quindi è per quello anche. Sì, comunque c'è nessun problema, è capibilissima, è solo diversa la timbrica, tu lì. Poi a qualcuno piace l'una, magari a qualcuno piace l'altra, quelli sono gusti. Vabbè, questo è il suo microfono originale, è ok così. No, questo non è quello originale di prima, questa è quella di effetto stanza. No, no, questo è il suo microfono originale dall'apparecchio. E l'altro qual era? Quello con più acuti e più medi qual era? Questo è il Tanner più 3. Se tra l'altro non capisco la differenza. Allora, questo che sto utilizzando adesso è il Tanner più 3, capito? Sì, ma quello con medio alti cos'era? Il microfono originale, il suo. Ho capito, dai. Allora, questo è il suo microfono originale, dalla casa. Sì, guarda, a me, oddio, se a volte piace più questo perché è meno cupa, meno rimbombante più che altro, non tanto l'effetto cupo quanto il rimbombare. Se questo, magari da salotto è più rilassata, mi. Poi cambio, bacio. Attento Marco, ascolti questa piccola modulazione, cambio. Così è già la battaglia. Prima hai nominato Antonello, che lui lo sa spaccio cucciù, ma Antonello è più entrato. Ah, non l'ho più sentito io. Capisci, ne trovo questo secco, perché non mi piace. Lui ha sbagliato, questo qua deve essere. Ok, va bene così Marco, faccio così, dai. Sì, vediamo se all'ascolto. Pomponio, ci sei all'ascolto. Vuoi entrare? No, perché lui c'ha Simone anche che non sa bene, quindi. Sì, sa cos'è? Io l'ho sentito due settimane fa, entrava di tardi, però di notte, solo che, come dire, era un po' già bollito, capisci a me. Aspetta che provo un'altra radio, se non mi ascolti. Sì, prova. Ascolti cuomani. E allora? Arrivo subito e vado a stampare due fogli. Guarda questa com'è, Marco, questa è originale. Sì, questo sembra il classico microfono di serie dell'apparato. È normale, vabbè, io non conosco la tua voce in verticale, però credo che sia neutro come timbrica. Questo è il microfono originale, questo è un Cobra che sto provando adesso. Cobra, mai che apparato? Cobra con le bande laterali. Quello è bello da mettere in macchina. AM, FM, CCB e anche canali alti possibilmente. E anche lineare. Tutto c'è. Che macchina di questo non ne metto perché questo ti spacciano la macchina per fregarti. Ah, ma no, da lasciare, se la macchina sta in strada, no, in macchina non si lascia nulla. Se è il garage è un conto. No, io in macchina di questo non ne metto. Bene va questo qua, aspetta che provo un altro microfono su questo, dove mi ascolti. Certo, una modulazione normale, dai, risicata, normale, dai. C'ho proprio l'altro microfono, e poi mi dici come esce, se è uguale a questo o è peggio. Aspetta, ma una modulazione a finocchio c'hai, fra. Va, è poca rota. Voglio provare, qui sono barrato il microfono. Ecco, buonasera a tutti, dai, vi lascio che stanno al lavoro, dai, ciao a tutti. ciao Manuele. Ciao Marco, buonasera. Luca, riprendi. Sì, scusate un attimo, sto andando a stampare dei fogli che mi servono. Via. E poi mi dice se hai wifi o col tabletto la tua. Cosa? Ho detto, poi mi dici se sei col tabletto o se stai stampando tramite il wifi. No, sto salvando la penna, vado dal mercato di libreria. Ecco. Non ne ho stampato, non mi conviene. 5, 6. Figa, aspetta che avete parlato in due, vai Franco. Aspetta che... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ciao Luca, buonasera. Ciao Franco. Non pompa molto, Che microfono è? Questo è un microfono normale, però l'ho cambiato perché qua non mi biasia. Oddio, li dovrei sentire a fianco uno dopo l'altro, così attaccatemi quasi. Che non si... Sai che uno l'aveva fatto? Ha fatto una specie di... Hai presente gli hub... USB, uno ha fatto una scatoletta con tipo 3 o 4 o se non più ingressi microfonici e teneva i microfoni tutti attaccati, no? Poi dalla scatoletta va alla presa microfonica del baracchino e con la levetta ti faceva istantaneamente il passaggio da un microfono all'altro. Capivo, te la faccia la sentire, dice guarda adesso sto usando questo, tac, adesso sto usando questo. E ho capito, dai, vabbè, adesso provo quell'altra pari. Luca, andate bene, arrivo. Santiago 1, Radio 1. No, la radio, non me ne frega il segnale, la radio va bene. Radio normale. E va bene, portate non sia barattoloso, almeno. Adesso vai bene. Ciao Manuele, buonasera. Adesso va bene la radio. Vabbè, Ginko. Sei Lu. Ancora nulla. E sei Lu. Ho detto ancora niente nobiltà. No, sei peggio, ma te, la gente viene da noi. Io buono macchina. E la procuri, e tu te la compri. Adesso vediamo, vabbè. Ci ha voluto la scheda anagrafica, vuol dire c'è l'assunzione. Non vuol dire niente di quello. Ti ho già parlato al telefono, capito? Meglio così, dai. Meglio così. Io fra un po' questo paro. E devo andare fino a domani mattina. Adesso bene, cambio. Adesso un po' di giornate, dai. C'ho la cavalcata, fare i panini. Poi c'ho la pasta di Alghero, insomma ne ho qualcosa, ce l'ho, dai. Fino a quando mi chiamano là. Se mi avevano chiamato pure da un'altra parte a fare servizio, pensa tu alla cavalcata pure. Come ti cazzo vuoi? Se devo trovare niente. Metto tu un pari. Ma è tutta cannuta. Ma... Ti hanno tutto quando nulla. Ma è normale. Ma lo stesso me. Quando è. Tutti i diplomiti. Ma tu pensa che. Anche un amico mi ha detto di chiamare questa. Non so chi sia, qua a Sassari comunque. Questa. Quello che stai facendo tu. Di chiamare, qua non l'ho chiamato. Vabbè, dai. Comunque, cosa pensi sia la voce? Portate quello. Emanuele. Guarda questa la 48 come funziona, va bene? Sì, è normale, ma già va bene, ascoltate, vedete? Qua è Nasina. Ancora Nasina, Sì, Nasina con l'eco, e poi è come dire fine, un po' sottile, con modulazione, e poi un po' Nasina, Nasina, con questo senti il parere di Luca anche, togli l'eco però. Aspetta un attimo, adesso ho tolto l'eco, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luca non si pronuncia. Vabbè, adesso l'eco non ce n'è. No, ecco no, però un po' è sottile, mi fine, un po' nasina, un po'. Sempre capibile, tu come vuoi però. Guarda, allora, era meglio il secondo microfono che hai provato su quell'apparato, non il primo, quello che hai detto che non ti piace, il secondo era la cosa migliore. Aspetta un attimo, forse il microfono è no. Vabbè, io anche io ho la nasina, ma io ho una narice narici è fuori uso perché sono focomane, quindi aspirando, capito, ti si infiamma. Guarda questo di microfono se va meglio. Siamo lì, a me sembra uguale, nasina. Nasina, Luca, ma ci sei o no? Manuè, tendi l'orecchio. Sì, nasina adesso. Ancora nasina, Emanuè. Adesso è peggio, prima era un po' migliore, dai. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre nasina, però c'è un po' di bravo di ecco. Accetta, probabilmente, adesso qual era? Forse era questo, no, forse questo. Cambio. Oh, poi Fra, io oggi ti sto ascoltando con questo, domani con un altro apparato, dopodomani con un altro, praticamente io non sento mai le persone uguali giorno per giorno, mi cambia sempre in base all'apparato che riceve, capito? Aspetta, può essere pure l'apparecchio che non va bene, aspetta un attimo, provo la radio a vedere se mi ascolti meglio. Sì, comunque sì, su quell'apparato il mic che andava un po' meglio era il secondo che ho provato, il secondo. Il primo era, come ha detto Emanuele, un po' da finocchio, un po' bassina, proprio una modulazione da omologato stretto stretto. Il secondo già un po' migliore. Terza nasina, vediamo, già ne pochi i microfoni. Io gli amplificati praticamente li uso poco e niente, perché mi non provo le palle, o te la fa in un apparato te la fa acuta, in un apparato te la fa cupa, in un apparato te la fa metallica, alla fine uso il mic normale come esco. Attento Natalino, non ci sei oggi, come mai? La mia nasina è la voce, Marco lì. No, è la voce tua, vabbè, in verticale non t'ho sentito, è la voce tua che ho sempre sentito, bella amplificata. Ma è bassa come modulazione? No, se ti ho detto amplificata non può essere bassa, è amplificata. Ok, yeah, va benissimo. Guarda questa com'è, 1, 2, 3. Quelle che piace a me. Né cupa, né troppo cupa, né troppo rimbombante, abbastanza fedele. Fai un passaggio lungo però. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova 1, 2, 3. Queste sono simili, cioè come piacciono a me le modulazioni, senza eco, senza stanza, senza cupo, poi i gusti sono gusti, Emanuele, come è? Va bene adesso. Questa va bene la radio? Sì, Gava. Questa è il 68, Emanuele. Ma va bene la modulazione. Allora, il 78. E il 68 questo. Quello basso è. In altezza è piatto. No, il 68 è un vecchio modello. Il vecchio modello questo, il 68, è proprio bis. Ah, 68, se io avevo capito il 78, credevo il Midland 78, quello piatto però con il display a cristalli liquidi. No, questo è il 68 vecchio modello. Ebbè, lì almeno li riempivano di componenti gli apparati, adesso sembrano mezzi vuoti gli apparati. Comunque va bene la modulazione, sì. Sì, poi tra l'altro i gusti sono gusti, magari 10 persone ti ascoltano e 10 ti danno un giudizio diverso. Non saprei. Sì, vabbè, dai, già andava. Volevo mettere questa in macchina, adesso quello. Ma il Mac è originale, perché se li metti magari qualcosa di un po' più performante, in macchina va più che bene quello. Se già il modulatore è buono di suo, con un amplificato giusto pompa anche di più. Vabbè, il segnale quant'è con questo? Aspetta, mi giro. Sono a culo in pippari. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, sì. Allora, 9 più 20, abbondante anche. Liscio, no? Sì, questo sta uscendo i vati su e bu. Eppure qua mi sono 3,5 modulati qua, non di più, 3,5. Poi, no, aspetta che c'è anche il filtro. Qui me ne ruba uno, saranno 2,5 veri. Poi se conti il cavo, 1,5 già forse, in antenna, 1,5. Adesso voglio provare un Sommercamp, un vecchio Sommercamp di Vaginocchi. Che modello poi? Dimmelo dopo, a sapere se è quello che aveva tipo Saturno. Dai, Marco, ci sentiamo, che vada a lavoro. no, dopo faccio il salto, ci devo uscire a Ruvagno. Ehi, a chiedevo l'altro giorno se avevi, l'avevo chiesto a Natalino, se avevi il baracchino in macchina, in modo da seguirti durante, mentre andavi a lavoro. Ah, no, no, no, no, no, no, non mi metterei mai io, ma qui, perché no, non ne vale la pena. No, ma no, non ti piace metterlo, vabbè, in macchina, vabbè, è una scelta, dai. No, no, già mi piace, però devi stare sempre tiro in modo, nonostante la torre, il mito, no. Sì, quello sì, se lo dovessi lasciare in strada si portano via, cavo, antenna, baracchino, tutto si portano via. Esatto, va più a bene. Vabbè, dai, buona serata con tutto, dai, ce la riascoltiamo. Ciao Franco, ciao Luca e vi ascolto una delle 60 in giro. Sì, ciao, buon lavoro, ciao. Chi è di positivo, fratello mio, che ti guardi la mia, fratello mio, allora. Guarda questo bidone come fa, se va bene. Mi hanno poco baracchini, sono giù due, sono un matto esidrato. No, vabbè, questo me l'hanno regalato, comunque, è un vecchio Sommercamp, 23 canali, magari esce una merda di radio. No, già c'è bene. Esce bene, bu. Ma qual è quello tipo bande laterali, adesso non mi ricordo il nome, io non so se tu l'hai conosciuto, tantissimi anni fa c'era Saturno, Largo Cavallotti, che aveva un, all'epoca mi sembrava roba spaziale, era piccolino come Sommercamp, però copriva un sacco di canali, aveva l'SSB pure, e aveva il selettore di canali che non erano, non faceva lo scatto normale, faceva un doppio clic. E praticamente dovevi fare così, questo doppio clic ogni canale che andava, oppure se lo tenevi premuto di lato andava veloce, quello così è. Allora, questo qua è un vecchio Sommercamp, 23 canali, non va manco FM, figurati un po'. C'ha le manopole tutte in alluminio, alluminio di quell'alluminio grosso, un bel, capito? Ah, vabbè, è un Sommercamp base, dai. No, quello mi era rimasto impresso perché aveva frequenzine, come era, per l'epoca era roba spaziale, ma sto parlando dell'84, figurati. E aveva una sigla che non ricordo, c'era in pare DX alla fine. Vabbè. E comunque questo qua ti posso dire che non prende né colpe né niente, una maniera che a paragone a questi baracchini qua. C'ha 23 canali, però colpe non ne prende, se tu ti metti sull'11 non neanche ti sento. Sì, allora, modulazione, allora, la modulazione magari non è limpida, pulitissima come quello precedente. Quello precedente hai messo un microfono che dava meglio, no? Che poi mi hai detto che era il 68. Questo è forse appena meno pulita. Però va. Vabbè, vecchio, era un po' di tempo fermo questo qua. Ah, lo stavo provando, perché ce li avevo fermi qua, capito? Ogni tanto li accendo. Allora, prima ho provato il coso, il 68, quello che mi ha detto che va bene, il 48 cioè. Sì, comunque, bene o male, fra, avvicinando l'orecchio ti sento bene. Certo, il microfono non è identico, la capsula non è identica, quindi ci avrà una timbrica magari un po' diversa dall'altro, però direi che va. Il modello me lo sai dire, così me lo guardo. Guarda, è questo 23 di questo Sommercamp. Ehi, così almeno me lo guardo visivamente su internet. Sommercamp, però non c'ho neanche gli occhiali. Comunque quel Sommercamp, 23 canali, senza MFM, poi c'ha un tasto, una spia rossa, e lo speaker piccolo piccolo, non so che modello sia, va, non c'ho gli occhiali appresso, non ci vedo niente. Devo andare fuori a cercare gli occhiali, forse sono in macchina. Secondo me è questo. Allora, per caso c'è uno smitter tutto a destra, piccolo piccolo verticale, poi una manopola di canali, dove ci sono anche delle lettere ABCDF, può essere, poi una spia luminosa rossa grande e poi volume squelce concentrico. K però non c'ha ABCD, c'ha i canali da 10 a 23, da 1 a 23. Via. questo c'ha lo chassis azzurro, vedi, azzurro, sai quello, come si dice con la finitura, martellato, come si dice? È martellato, è uguale a questo allora, sì sì, è così, tipo c'hai lo stesso colore del toccai, dai. Ma vedo a sinistra sopra il mic, dove si attacca il mic, c'è il tastino CAL anche tu. Sì, c'è anche quel tastino, certo. E il microfono però, il filo esce direttamente dentro la radio, quindi non puoi cambiare neanche i microfoni qua. Devi tagliare e modificare. Esatto, esatto, il cavo entra dentro, non ha spinotto. E funziona il CAL, prova un po' a pigiare, sarà tipo il toccai. Ma era quello. Sì, è simile al toccai, il toccai era più assillante, però va bene per mettere portante. Come faceva Ottavio negli anni 80 con il toccai. È un bel vecchio questa radio, poi 60 anni va. Sì, poi ce n'è uno simile al tuo, che però ha lo Smitter anziché all'estrema destra, ce l'ha all'estrema sinistra. È ancora più vecchio, anni 70 dice. Isso Maria, quanto sono antichi questi apparati. Oh, eppure funziona, vedi? Io invece avevo il Pony, sei canali, quello a quarci col mic altoparlante e tutt'uno, e non l'ho acceso per tanto tempo e non funzionava più, e ce l'ho buttato, forse ho fatto male, però ho buttato nella mondezza. Allora io ne ho uno, sei canali, sempre di questi, di questa marca qua, Sommercamp, sei canali ABCD, funzionate anche quello. È sempre quarzato, sì, quando va bene, bastava metterli il 10, il 23 e basta, andava benissimo. Infatti lo sai cos'è il bello di questa radio? Che non prendono colpi. Beh, erano radio fatte con i filtri, cioè, con i filtri, invece come sono arrivati gli anni 80, no? Hanno fatto quelle EPT, no, come si chiamavano? Non le EPT, quelle dei multimode, dei Eigen Quinto, come si chiamano? Le schede Cybernet, quelle prendevano colpi, una cosa folle, sembra proprio, non erano filtrati, era una cosa folle. Oh, figurati, oh yeah, per carità. Tu l'hai mai avuto multimode 2, 3, Concorde, Viking, terrificante, terrificante, non potevi modulare. E vabbè, diciamo che questi sono apparecchi vecchia, vecchia era, dai, questo è un ben vecchio, qua microfono, per adattare un altro tipo di microfono devi tagliare il filo e mettere lo spinotto. Caspita, sto guardando qua questo, tre barecchini antichi, no, come cerchi il tuo, magari mi compaiono cose simili. C'è un irradio, marcato irradio, volume squelce, ANL, PA, presa a quattro poli, 23 canali sempre, no, con la rotella A. E c'ha uno Smitter a ventaglio al centro meraviglioso, nuovo, nuovo. Questo è praticamente, non è mai stato usato, sicuramente. C'ha addirittura il microfono nella bustina, sembra tutto originale, 200 euro. Vabbè. Però è immacolato, cioè questo sicuramente era, cioè quelle cose mai vendute, ma solo che io mi chiedo, ma scusa, dopo 40-50 anni che non è usato, i condensatori non sono fottuti. Ah, io non lo so, questo qua c'ho mediani, l'ho aperto dentro a controllare, a vedere, non è stato mai toccato da nessuno questo apparecchio. Comunque usali ogni tot settimane o mesi, usali, perché sennò se riesci fermi poi parte tutto. Poi ce n'è uno bello, marca Canio, Sanio, col fondo in legno, sempre piccolino, tipo il tuo, però col fondo in legno, e un sacco ce n'erano. Poi tutta roba americana, mi era arrivata dall'America sta roba, quando la 27 addirittura era illegale. Beh sì, il signore quanto è sempre uguale, ho aumentato roba. No, aspetta, c'è qualcosa che non va, premi la portante solo e poi fischia. Ma sei 9 così, sì, Santiago 9, cos'è successo? Ho abbassato il watt io, aspetta. Guarda adesso, 1, 2, 3. Allora, modulando, alzando, modulando, prossimo 9 più 30. Figur, già va bene. Va bene, no, volevo sapere se c'erano, se stavo aumentando, perché posso aumentare e diminuire, capito? Sì, allora così è 9,25, però quando moduli sale ancora di più, sale ancora di più, eia, ce n'è, ce n'è. Adesso sono con più di 20 watt. E poi lì in alto a voi se arriva il segnale. Allora, io sto cercando questo Sommercamp famoso, forse l'ho trovato. Che roba strana che era, AM, FM, USB, LSB, e una cosa del genere, e c'era manopoline attaccate alla manopola dei canali, no, ma non al frequenzimetro, questa volta aveva il frequenzimetro, quelli erano belli, però facevano una modulazione, ecco dove volevo arrivare, facevano quell'apparato di serie, una modulazione così nasale che era terribile, terribile, millo, millo, agita. E non me lo apre. Apparecchi grandi, dentro non c'è nulla. Eccolo qua, questo credo sia il Sommercamp che avevo visto io da Saturno 40 anni fa. Frequenzibile, trasmitter grande, a ventaglio. E non c'è scritto il modello però. Porca miseria. Adesso me lo guardo. Qua io c'ho un 48 tutto modificato qua, con doppio modulatore, c'è tutto. Non l'ho mai usato, ce l'ho sempre buttato nell'armadio. Allora dovrebbe essere questo. Guarda se l'hai mai sentito, Sommercamp TS788DX, ricordati, 788DX. Aspetta, eccolo qua il modello, ve l'ho trovato. Questo è TS 62 40 40S. Vediamo se era quello. Ah, ecco qua, TS600 mi dice. Adesso cerco il tuo. Com'è? Dimmi la sigla di nuovo. Aspetta che apro Google. Com'era? TS640? Sì, TS6245. Eccolo qua. Immagini. Sì, è molto simile a quell'altro, molto, molto, molto. Per non dire lo stesso mi. Però sto notando, ah, ma questo è modificato, vedi qua gli hanno messo la spina a quattro poli, però come vedi è lo stesso azzurro, il coperchio azzurro martellato lì. Bella quella finitura, mi piace molto. È il modello vecchio, capito. E questo qua è, allora TS6240, no, 624S TS, hai capito? Sì, guarda, meno male, 624S, sì, sì, sì, sì. E vedi qua li hanno modificati, gli hanno messo la spina. Addirittura uno gli ha messo la spina a quella vecchia, quella a pressione, quanto è brutta, non la posso vedere. No, no, questo esce il filo direttamente dall'apparecchio, non è a spine. Però vedi, è una rottura di palle perché sei costretto a usare solo il Mac originale, che comunque va a voglia, anche se lo usassi in macchina. E comunque io non li metterei questi, nemmeno questi vintage li metterei in macchina, perché poi c'è la gente appassionata, ci sono i ladri appassionati e te lo rubano lo stesso. Cioè in macchina non bisogna lasciare niente, niente. Ho finito il tempo di lasciare la roba in macchina. Questo se lo lasci in macchina te lo rubano lo stesso. Sì, io sono sicuro, qualsiasi baracchino vedono montato, aprono e rubano. Cioè, se trovi proprio quello che vuole rubare, si ruba tutto rubabile, tutto è. Dal cofano si porta via, cosa dice, quei cavi batteria, il kit di, sai, gli attrezzi della macchina, tutto. Eh beh, certo. Non bisogna lasciare niente a macchina, devi buttare tutto. Io poco fa stavo pilotando con quell'antenna verticale piccolina, capito? Quando stavo provando quell'intecchi lì, vabbè, non è un granché di apparecchio. Qual è l'antenna verticale piccolina? Ma la bazooka? Quella che c'ho in macchina, è un'antenna tipo una frustanera corta, piccolina, caricata al centro, capito? Che quell'antenna non la fanno più. Sì, l'ho avuta anch'io. Allora, l'ho avuta, io praticamente la mettevo sulla 500 di nonno, no? con la staffetta a gronda, e ne avevo due, avevo la PLC 800, quella con lo stilo in acciaio inox e non fibra. Oppure c'avevo questa antenna, me l'aveva consigliata Gianni Vironessole all'epoca, pensa, era sui 60 centimetri giù di lì ed era in fibra caricata, soprattutto la carica la alzato la sentivi al centro, un po' si voleva anche la bobinetta. E vai, cuocuomane. Davvero, bellino. Poi ti abbiamo chiamato tanto, ti abbiamo invocato, ho detto non uscivi mai a Pizzu. Oi, oi, oi. Guarda, sai cosa mi è successo? Baba, cos'altro è successo? Tutta la sera in bagno, insomma, andando e tornando. Ma pigliato che aguzzina, bra, guarda. Non è possibile. Quella è la purga, Cosa è la purga, ragazzo, mamma mia. A che virus deve essere mappigliato? Una diarrea nera, ma ho dovuto prendere un immodium. Ero addormentato poco fa, guarda, che sono distrutto. Limone ti devi mettere. Acqua e limone. Cioè io ho detto devi mettere limone, acqua e limone, cioè. Ah, il limone direttamente dietro a fare da tappo. Anche. Però io consiglio il tappo autofilettante. No, un tappo di sfumante mi ho messo. Andiamo, andiamo, bubu. Ma lo sai che con la pressione quello può fare, fa il zocco mi con un tappo di sfumante. Cazzo. Molto contento. Era milione, mamma mia. E c'aveva la massima potenza quanto da. Marco, adesso com'è? Ehi, aspetta, mi devo sempre spostare. Ecco, vai. Ehi, come prima, 9.25 attendente al 30. Cosa ridda, L'antenna la solita, cos'era? Mezz'onda o 5 ottavi? Non mi ricordo mai. Una 5 ottavi, ma non si fa nulla. Ma la Venom? Ma per carità, come mi dava il tempo non la butto a terra con l'antenna. C'è un bel stazionario questa antenna. È strano, ma te l'ha sempre data le stazionarie, perché ti spiego, io ho comprato la mezz'onda, l'avevo fatta collaudare a Gianni il Profeta ed era perfetta, stazionarie nulle per almeno 120 canali, credo. Qua io ti posso dire che questa c'ha 1,3, 1,4 le stazionarie. Sì, cosa vuoi che sia? Cioè, cos'è 1,3, 1,4? Guarda, sotto il 2 è tutto buono, dopo il 2 le stazionarie, passaggi brevi. Certo, se arrivano a 3 è preoccupante, però. No, ma quella era proprio 1:1 sui canali normali, 1:1. Avevamo seguito le indicazioni in fabbrica, no? Avevamo serrato gli elementi dove c'è quel segno a pennarello che mettono in fabbrica ed era perfetta. Cioè, guarda, quante stazionarie c'ho? Aspetta, Adesso lo metto a 0, quindi. Quasi 1,5 ne ho. Certo, poteva essere migliore, strano. Ascolta, ti sei accorto se le stazionarie sono più alte in alto o in basso? Dov'è che sono più alte? Sull'1 o sul 40? Allora, nel 10, adesso provo sul 40 quanti ne ho. Sì, approva un po', dai, almeno a capire se va accorciato o allungata. Lì basta accorciare di pochi centimetri, mollare un po' la fascetta, allungare o accorciare l'ultimo elemento. O quello in basso, è uguale, mi. Caro Natalino, invece io quando era 3 settimane fa ero a Cussi, lo sai, stavo sempre andando in bagno, non era nemmeno, però non si poteva definire diarrea, però c'era il richiamo della natura più volte uno dietro l'altro, capito? Perché non si sa. Quando è così è un virus, a me è proprio diarrea, gatto. Marco, allora sul... Praticamente sul 40 ne ho 1,3, sul 10 sale a 1,5, 1,6, dai. Allora l'antenna è corta, se vai sull'80 magari ne hai 1,1, mi. L'antenna è corta, va appena appena allungata per lavorare meglio sui canali bassi. Allora sai cosa faccio? Me la tiro e ci metto quell'altra che c'ho qua. Comunque sta funzionando, conta che tu sei in alto, io sicuramente se vado distante in macchina, cioè dalla zona tua non ti puoi lamentare, qualsiasi antenna metti. Vabbè, ma la voglio togliere questa antenna perché mi sta dando problemi, non mi piace come antenna, mi ci voglio mettere la Vimaster che ce l'ho, è già pronta a piazzare. Ehi, ha voglia, se ce l'hai disponibile, sì, infatti io la Venom la considero un'antenna temporanea, anche perché è sottile, no? Potrebbe anche non anche la mia, però dicevano che era fina, la mia è simile, mia, è forse non così fina a alla base dello stilo. Però dicevano, ma è sottile, al primo vento forte ne scende, invece 9 anni, a proposito, a che ora cosa siamo? Marzo, aprile, maggio, l'antenna ha compiuto ufficialmente 9 anni e non le avrei dato 2 anni di vita. Natale, riprendi. In questo momento tu sei stato fortunato in quell'antenna. A me mi si riempiva l'acqua e mi salivano le stazionali a 2. Ma io ce l'ho quell'antenna, Natale, l'ho sistemata, ma ci voglio mettere quell'altra. No, ma infatti, Fra, per un'installazione definitiva, cioè metti l'antenna migliore che hai, è ovvio. Beh, certo, ci metto quella e truba. È inutile che sto sempre a salire sul tetto, a rompermi le scatole. Vabbè, è telescopico, svitto la porto giù, non è un problema. Eia. Io quella V non l'ho presa di scorta, volevamo metterla in campagna, non si sa mai, usi futuri. Comunque ce l'ho conservata, è tutta bella in busta, poi è leggerissima, è incredibilmente leggera, è più corta della tua, mi fa, perché la tua dovrebbe essere 5,80 m, la mia è 5, nemmeno 5,50 m. Però la cosa strana, io l'ho chiesta, voglio la Venom, mezz'onda senza radiali, però, perché la mezz'onda, radiali non servono, niente, me l'hanno mandata con i 3 radialini, quelli corti. È uguale a quella che c'ho io sul tetto, Com'è quella è quella che c'ho io, con i radiali corti, 3 radialini piccoli, saranno da 30 centimetri. Esatto. Però quello che non capisco io, la 5 ottavi ovviamente ha bisogno di radiali, proprio per come è costruita. Hanno fatto dunque la Venom 5 ottavi di stecco, radiali e senza radiali. La mezz'onda, che non ne ha bisogno, l'hanno fatta sia senza radiali sia con radiali. E che senso ha questa storia? Per vendere di più, per far fresco e contento? Oppure, probabile pure che i radialini piccoli nella mezz'onda aiutino a abbassare l'angolo di radiazione. La teoria era quella, però non so chi me l'abbia detto. Ma cosa vuoi ti dica? Io, Marco, come migliorare il tempo, la butto giù l'antenna, ci metto quella lì e boh. Anche il cavo devo cambiare, perché questo cavo che c'è non è che mi piace molto. Attenzione, Franco! Yeah. La mia controllo di radio. Radio un po' preamplificata, 5, e segnale 9,10. Certo, un po' preamplificata, boh. Spacca orecchie. Cappa, è troppo alta, burro, va via le cuffie. E io crepa le cuffiette, dai. Così ho passato, va bene. Comunque buonasera a tutti e due. Ciao Tony, buonasera. È troppo alta Tony, ribombante, un bel forte quel microfono. E rossure. Cazzo, ogni radio, boh. Eia, ma poi l'escursione dei... Allora, l'escursione che c'ha lui, da Portante Mutta, che è 8 e mezzo, ha modulato, passa tipo 9,10 o 9,15, con la modulazione sola, mi. È un bel forte quel microfono. È come che lui avesse, che ne so, un watt, come si faceva con i 48, un watt di Portante Mutta e il resto tutti modulati, gli altri watt. Infatti. Comunque, come radio, è abbastanza chiara, dai. Sì, la radio va bene, è chiara, è un bel forte, io vabbè, cioè avevo le cuffie poco fa, adesso le sono meno tolte perché mi rivendi il soldo, vabbè, comunque, già va bene. Sono a metà di microfono, Franco. Cosa? Sono a metà di microfono. Abbasso un altro po' appena. Così è più basso, un quarto. Che è sempre forte, no Marco? Sì. No, ma poi, a parte che è forte, è un po' l'effetto stanza, lo senti come in lontananza e poi l'effetto stanza troppo. Tu guarda quando metti a manetta. Così è a manetta. 1, 2, 3, prova, sono distante 30 cm dal microfono. Quasi innesca, premi la portante Mutta. No, non è innesco, sono i rumori di fondo, i rumori della strada. Io sono in campagna, del vicinato, ovviamente. Così, vabbè, ho difficoltà a capirti, è troppo complicata, tipo... No, così ho passato, dai. Ecco. Ehi, sempre forte. Cioè, pensa, se Franco era regolato per il mio volume, che io c'ho il Mac normale, ti avrei sudronato le orecchie. Oh, va bene, dai, ok, ti ascolto bene comunque, tu mi dai, non ci sono problemi. Ho abbassato leggermente il volume, io sto uscendo adesso col Tanner, va bene? Perfetto, capo. E Marco, questo è il Tanner che sto provando con questa radio, va bene? Sì, sì, guarda, ho perso anche il conto di quante radio e quante mic hai provato. Comunque con la storia della scatoletta microfonica dove tu li puoi collegare tutti e poi col selettore passi da l'uno all'altro è una figata assurda, perché puoi fare nello stesso passaggio, puoi fare tac, microfono, questo è il microfono 1, tac, questo è il microfono 2, eccetera eccetera. Ho capito. E che va saputa fare, cioè non le vendono pronte, se la costruita lui. Franco, cosa? Franco. C'è anche Rattalino oggi lì. C'è anche la portantina. C'è anche Rattalino che era a Cussi oggi. Luca, cambia il microfono. Franco, questa radio già la conosci tu, questo microfono? Quella va bene lo stesso. Natali, quella è una bella modulazione, Tony, va benissimo. E K, Natalino, occhio fischiato, mi sembrava che Gianni, Chiava e chiava. Oh, un giorno invece, vado? Vai. Allora, un giorno io ho preso questa roba cinese, da mangiare uno spaghetti di soia con uovo e carne, non so che cosa c'era in mezzo. Ho mangiato quella cena e poi ho mangiato anche una cosina che avevo a casa. Il giorno dopo, la mattina dopo, ho rimesso praticamente lo stomaco ha filtrato e digerito, infatti non ce n'era traccia, di quella roba che c'era a casa non ce n'era traccia e ha vomitato solo quella roba cinese. Com'è possibile questa cosa? Cioè lo stomaco è riuscito a capire qual era la roba commestibile, quindi è passata nell'intestino e la roba invece l'onfia, secondo me l'uovo, è rimasto nello stomaco e è stato rimesso. Vi è mai capitato? A me no. Cioè di solito se tu stai male dovessi vomitare tutto quello che hai mangiato, invece no, quella roba buona è passata e la roba sicuramente o c'era l'uovo andato a male, cioè fatti affidare. E poi mi è venuta questa febbre che si è alzata in fretta, è arrivata a 38 mesi e poi è scesa appena ho rigettato, capito? È qualche cosa partita senz'altro. Potevi andare a che piccia, comunque è andata bene, dai. Sì, però non mi fido più a comprare questa roba qua. Sembra fresca, il sapore era buono, tutto buono, però poi c'era qualcosa di ambiguo. No, quello che mi ha stupito è che lo stomaco si è riuscito a filtrare la roba buona e farla andare nel duodeno, quindi nell'intestino, e ha rifiutato proprio l'altra. Meglio così. Ha uscito uno sottofondo. Franco, riprendi. No, è niente, sono dei cusi, propagazione, tu lì. 5-7 da me. K, 7-8 qua. Oh, Giulia, andiamo bene, andiamo. Andiamo bene, ma non lo fai, è andato di nuovo al QTH piccolino. Ero io così, sono stato 2 giorni, per carità non te ne dico, Marco, neanche uscito da casa sono. E di come stanno girando virusini intestinali, e ormai di tutto, ci siamo circondati a 360 gradi, ogni adivine una. Ma noi siamo tutti impiccati, bisogna scegliere i bandolini, Vado a girare... che sto cucinando, tra poco metto la pasta e fagioli, ci ho messo qualche patata tritata così fa il sugo bello denso, un attimo che vado a controllare. Capito Marco, con tutti questi virus che ci sono in giro è un casino veramente qua, non si capisce più niente. Seia, tutti i giorni pasta e fagioli prendetene e trodiatene tutti. Io ce l'avevo oggi la minestra e fagioli, non gli per carità. Ah, quello hai mangiato, però non è molto adatto mia la condizione tua oggi. E infatti non ne mangio. Che cucina, io sono stata stanotte non ne mangio, non sono macco. Dai Lucy, cazzo, entrando e uscendo dal QTH piccolino. Davvero di Natali. E allora? Vabbè, andiamo noi, andiamo Natali. ecco, da poco, siccome mamma lo stesso un po' di mal di pancia eccetera, avevamo fatto un paio di volte questo, abbiamo preso una ricetta, riso praticamente al limone, ci metti un ciuffo di prezzemolo, un filino d'olio, riso e poi il succo di un intero limone, capito? Il riso già un po' astringente, più il succo di limone, la ricetta, poi la ricetta prevedeva il tonno da mettere, una scatoletta di tonno, però il tonno non l'abbiamo messo. Ed è abbastanza stringente, ti risolve la storia, capito? Vai, fa. Andiamo bene, andiamo su niente Baracchini, ciao la Vidus. Ciao Gianni. Buonasera a tutti, ciao fra. Ciao Gianni. Ciao Marco, ciao a tutti quanti, dai, Natalino, tutti quelli che ci sono. Avanti, Franco. Franco non risponde, sarà andato al QTH a piccolino. Ciao Gianni. Ciao Natalino. Ciao anche a Tonino che non aveva avuto modo di salutarlo. Ciao Antonino. Ciao Gian. Ma è vero che QTHino, Natalino, cosa ti è successo? Oggi, in quando scendi dal QTH a piccolino. Qua l'hanno detto qua. Io l'ho sentito, poi non lo so. Deve essere qualche virus, mi ha colpito. Mamma mia, attenzione Gianni, mutande di ferro. No, a me mi è successo ieri avantieri, quindi sono già passato. Meno male che a me non mi ha attaccato, perché ho fatto belli solidi, quindi. Ma scusa, la finestra. Ho dovuto fare anche la camomilla perché c'avevo mal di pancia forte. Messi discorsi. Insomma, proprio oggi una discussione di me. Andiamo bene, andiamo, Bubu. Ma mi ricordo che sono discussioni boh. Io sono entrato questa volta, già parlando di fagioli, di queste cose. No, io te sto facendo la pasta ai fagioli, ci ho messo la patata ben attrezzata per fino a fine, poi si scioglie, fa il sugo denso e boh, detto vado a girare, ma nel mentre che sono andato a girare, torno qui e sento parlare di Bubu. Vabbè, ma con lui ho detto buon scorriccio a fare del genere. No, aspetta, ho detto, la pasta ai fagioli, ho detto prendetene e trodiatene tutti. Ehi, quindi, e poi da lì si è passato il virus. E passatevi la palla tutti i gatti, sì, di Bubu. Già vai, già vai, con molta crema, vedrai che il cuscino era meglio. Io mi